l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Eco del Silenzio. Io sono Lucia Cappellucci e come al solito siamo su Radio Libriamoci Web. Questa settimana le nostre notizie saranno un autentico potpourri. Iniziamo subito quindi ad assemblarlo. Da www.senonoraquando.eu, nella parte dedicata alla rassegna stampa. Il suicidio di Amina scuote il Marocco. Costretta a sposare il suo stupratore, la ragazza si è tolta la vita. Le donne si mobilitano rivendicando una primavera che il codice culturale penale ancora nega. E il governo islamista ascolta. Di Luigi Spinola, da Il Riformista, del 17 marzo 2012. Amina Filali aveva 16 anni e viveva a Larache, città portuale del nord del Marocco vicino a Tangeri. Qui ha passato i suoi ultimi giorni lieti il cattivo ragazzo della letteratura francese Jean Genet, che vi trovava giovani disponibili e molte luce lungo la corniche affacciata sull'oceano. Qui Jean Genet è tornato da morto ed è sepolto nel piccolo cimitero spagnolo della città, dopo aver perso la vita cadendo in una triste stanza d'albergo parigina. Amina, a Larache, è morta dopo aver mandato giù veleno per topi, in mezzo alla strada dove l'aveva trascinata per i capelli il marito, oltraggiato dal suo tentato suicidio. Amina si è tolta la vita perché è stata costretta a sposare l'uomo che l'aveva violentata e le donne marocchine infuriate si stanno ora mobilitando per rivendicare una primavera di diritti ignorati dal codice culturale e negati da quello penale. L'articolo 475 del codice penale marocchino prevede, per chi sequestra una donna, alla violenza sessuale si allude soltanto, per non disonorare la famiglia di chi la subisce, la possibilità di non finire in galera sposando la vittima. E siccome in teoria il reato può essere punito con la reclusione fino a 10 anni se la vittima è maggiorenne, fino a 20 se ha meno di 18 anni, allo stupratore il matrimonio conviene. E conviene alla famiglia della vittima, che può cancellare l'onta della verginità perduta. Così è andata Larache, quando il padre di Amina ha denunciato la violenza subita dalla figlia, la stessa magistratura ha suggerito l'accomodamento previsto dal codice, racconta ora Lachen Filali al quotidiano Lai Goudma. Le due famiglie hanno trattato. Lo stupratore era riluttante, poi si è fatto convincere. Le famiglie si sono riconciliate e il giudice, tenendo conto delle circostanze speciali, ha permesso il matrimonio, altrimenti vietato dalla legge prima dei 18 anni. Amina è andata a vivere con l'uomo che l'aveva stuprata e nei pochi mesi in cui è durato il matrimonio l'ha anche sistematicamente picchiata. Sabato scorso Amina si è suicidata. La sua storia ha scosso il paese e acceso la rivolta delle donne, che prima sono scese a manifestare a Larache davanti alla corte che ha dato il via libera al matrimonio e poi, oggi, a mezzogiorno, si ritroveranno non solo tra donne, si augurano, davanti al Parlamento di Rabat, per dire no allo stupro con la complicità dello Stato, come recita la pagina Facebook a lei intitolata. Amina è stata violentata 3 volte, dal suo stupratore, dalla tradizione e dall'articolo 475 del codice penale, twitta l'attivista Abadila Maileine. La pressione dell'opinione pubblica ha costretto anche il governo, guidato dal fratello musulmano Abdelilah Ben Kirare, a dedicare al caso buona parte dell'ultimo Consiglio dei Ministri. Il Marocco, per la prima volta, un esecutivo espresso da una maggioranza parlamentare reale, quella uscita dalle elezioni di fine novembre, organizzate dopo le riforme costituzionali volute da re Mohamed VI e a Rabat. Si è da poco insediato un governo di coalizione, dominato dal partito islamista moderato della giustizia e dello sviluppo, ancora sotto osservazione su questioni sensibili come i diritti delle donne. Questa ragazza è stata violentata 2 volte, la seconda quando è stata sposata, commenta il portavoce governativo e ministro della comunicazione Mustafa El Khelfi, assicurando che studieremo in un modo approfondito la situazione, considerando anche la possibilità di aggravare le pene nel quadro di una riforma dell'articolo 475. E il ministro della giustizia, Mustafa Ramid, fa sapere che ha un'attenzione speciale al caso di Amina e si impegna e metterà in piedi una commissione speciale che lavorerà sulle disposizioni penali per garantire una migliore protezione dei diritti delle donne. Il Marocco, peraltro, ha già varato nel 2004 un nuovo diritto di famiglia, considerato un modello di riformismo nella regione. È stata abolita l'obiezione dovuta dalla moglie al marito, la possibilità per lo stesso di divorziare unilateralmente fuori dai tribunali e il suo diritto esclusivo all'affidamento dei figli. Questo sulla carta. E sulla carta, statistiche ONU del 2009, in Marocco vi sono solo 3,6 casi di stupro denunciati su 100.000 donne, mentre stando a uno studio dello scorso anno, quasi una donna su quattro è stata sessualmente aggredita almeno una volta nella vita e presumibilmente ha poi preferito stare zitta per non fare la fine di Amina. In Marocco, se una ragazza non vi vuole, violentatela, twitta Laila Balmani, così siete sicuri di poterla anche sposare. La primavera ancora tarda ad arrivare. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.wallstreetitalia.com. Grecia. Sistema sanitario allo sfacelo. Tornano AIDS e malaria. Del 16 marzo 2012. Atene. Donne senza tetto incinte lasciate in strada. I resti nel pattume che diventano il pasto principale della giornata. Studenti. Costretti a fare la fila nei centri di sussistenza per bisognosi. E ora, anche la diffusione di malattie gravi, ma che sarebbero tranquillamente curabili, in un sistema sanitario funzionante. I tagli ai servizi sanitari in Grecia hanno spinto il sistema sociale dell'healthcare ellenico sull'orlo del collasso, aumentando al contempo i casi di malaria e AIDS nella nazione indebitata. Il tasso di incidenza delle due malattie infettive tra i tossicodipendenti e tra soggetti che fanno uso di droghe per iniezione è balzato dell'1,25% nei primi 10 mesi del 2011 rispetto all'anno prima, a lanciare l'allarme la divisione greca di Medici Senza Frontiere, secondo cui la malaria, per la prima volta da quando al potere c'erano i colonnelli, è diventata endemica nella parte meridionale del paese, ovvero una malattia infettiva costantemente presente. La dittatura dei colonnelli è caduta negli anni 70. Rebecca Papadopoulos, numero uno dell'organizzazione ellenica, ha sottolineato che in seguito ai tagli alla salute, compresi tagli al personale e riduzione del 40% dei finanziamenti agli ospedali, i servizi sociali sono in una situazione molto difficile, se non in uno stato di sfacelo, precisando che sono segnali chiari di un sistema che non ce la fa più. I tagli pesanti, orizzontali e ciechi, hanno coinciso con un aumento del 24% della domanda per servizi ospedalieri, spiega Papadopoulos. In gran parte, perché la gente non si può più permettere di ricorrere ai sistemi di assistenza privata. L'intero sistema si sta deteriorando. Ieri, il Fondo Monetario Internazionale ha accordato un nuovo pacchetto di aiuti da 28 miliardi di euro, che farà parte di un piano straordinario di finanziamenti pari a 130 miliardi complessivi. Atene ne ha un disperato bisogno per riuscire a ripagare i debiti e per poter conservare i suoi servizi sociali. Ma se questo è il prezzo da pagare, sarebbe meglio, forse, ricorrere al default del debito sovrano. Da www.eilmensile.it. Guatemala. ONU chiede abolizione pena di morte. Del 16 marzo 2012. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Nevi Pillay, dopo una visita di 5 giorni nel paese, ha chiesto l'abolizione della pena di morte, che in Guatemala si svolge per iniezione letale. La richiesta ufficiale è stata consegnata al presidente del Parlamento, Gudi Rivera, e ai vertici della Corte Suprema. È un gesto che apprezzeremmo, ha detto Pillay. Nonostante sia ancora in vigore, negli ultimi 27 casi la pena capitale è stata sempre commutata in ergastolo. È dunque coperta da una moratoria di fatto che comunque non basta per scongiurarla. L'ultima volta è stata applicata nel 1998. Fino al 1996, anno in cui si concluse la guerra civile cominciata nel 1960, era eseguita per fucilazione. In Guatemala persiste in ogni caso un vuoto legale riguardo a chi detenga la facoltà di concedere l'indulto o di commutare la sentenza e per l'abolizione è richiesta una modifica della Costituzione. La pena capitale, in vigore in diversi paesi americani oltre al Guatemala, Stati Uniti, Cuba, Belize, Guyana, oltre a una decina di isole anglofone dei Caraibi. L'eco del silenzio. D'ora concludiamo con due notizie che vengono dal sito di greenpeace.org nella sezione Italia. Rompiscatole terzo. Quant'è sostenibile il tonno in scatola? Del 15 marzo 2012. Sai che tonno mangi? Scoprilo con la terza edizione della nostra classifica Rompiscatole sulla sostenibilità delle scatolette. A 2 anni dalla prima, i punteggi migliorano, anche se non c'è ancora nessuna azienda che riesca a raggiungere la fascia verde. Asdomar rimane al primo posto seguito da Mare Blu. Resta dietro Rio Mare perché non prende gli stessi impegni. Agli ultimi posti Nostromo, Mare Aperto Star e Maruzzella. Asdomar offre in una parte dei propri prodotti il più sostenibile tonnetto striato pescato con canna e fornisce tutte le informazioni in etichetta. Ma per entrare in fascia verde deve adottare gli stessi standard in tutta la produzione. Al secondo posto Mare Blu. Una settimana fa si è impegnato a utilizzare solo metodi di pesca sostenibili per il 100% dei propri prodotti entro il 2016. Rio Mare, invece, è il leader delle vendite in Italia, ma non lo è per sostenibilità. Non offre alcun prodotto sostenibile e una qualità responsabile a metà. Se vuole essere davvero il primo, deve eliminare dall'intera produzione metodi di pesca distruttivi, come l'utilizzo dei FAD. I FAD, ovvero quegli oggetti galleggianti, utilizzati per concentrare i pesci, sono responsabili della cattura di esemplari giovani di tonno e di numerose specie marine, tra cui squali, mante e tartarughe. Chiedi anche tu a Rio Mare di impegnarsi al 100%. Partecipa alla petizione su www.greenpeace.it/tonnointrappola. Tra i risultati più significativi che abbiamo ottenuto in questa edizione della classifica c'è l'impegno di molte aziende verso una maggiore trasparenza. Entro la fine del 2012, infatti, al posto della semplice scritta ingredienti tonno, ben 10 aziende delle 14 in classifica riporteranno in etichetta nome della specie e area di pesca, e di queste, 3 inseriranno anche il metodo di pesca. Quando sono i consumatori a chiederlo, il mercato si muove. Dopo aver denunciato la mancanza di trasparenza del settore lo scorso novembre, migliaia di persone hanno chiesto più informazioni in etichetta e le aziende si sono decise a farlo. Adesso, sempre più marchi devono garantire ai consumatori metodi di pesca sostenibili. La grande distribuzione, che sul mercato inglese è stata la prima a offrire prodotti sostenibili, in Italia fa pochi passi avanti. Grandi supermercati come Auchan, Carrefour e Conad non hanno ancora adottato precisi criteri di sostenibilità nella scelta del tonno e le loro scatolette sono tra le meno trasparenti. Callipo scende in classifica perché, nonostante l'impegno a vedere nel 75% dei propri prodotti tonno pescato senza FAD, non fornisce la sufficiente certificazione per garantirlo. E non serve neanche affrettarsi ad avere un documento sulla sostenibilità se privo di impegni concreti per una pesca sostenibile, come nel caso di Nostromo, Mare Aperto Star e Maruzzella, che rimangono sul fondo della classifica per non aver adottato alcun criterio che garantisca ai consumatori che il proprio tonno non arrivi da una pesca distruttiva. Le decisioni delle aziende possono davvero trasformare il mercato. È necessario impegnarsi a vendere solo tonno pescato in modo sostenibile, favorire il recupero degli stock, evitando quelli a rischio e incentivare una migliore gestione della pesca. Alcuni marchi hanno dimostrato che cambiare è possibile. Cosa aspetta Rio Mare insieme agli altri grandi attori del mercato italiano? Consiglio a tutti di leggere, almeno per curiosità, perché è davvero interessante, la classifica Rompiscatole. E poi, per coloro che lo ritenessero opportuno, di firmare la petizione per Rio Mare. Rimanendo sempre su Greenpeace Italia, da www.greenpeace.org, all'Italia serve un ministro dell'ambiente, non del biotech, del 15 marzo 2012. Sul tema OGM il ministro dell'ambiente annuncia un'apertura e chiede una riflessione seria. Grazie all'ingegneria genetica, dichiara Clini, sono stati ottenuti molti dei nostri prodotti tipici. Il grano duro, il riso carnaroli, il pomodoro sammarzano, il basilico ligure, la vite del nero d'avola, la cipolla rossa di Tropea, il broccolo romanesco. Che serve una riflessione seria non ci sono dubbi, ma se a promuoverla è un ministro che non sa distinguere fra incroci e OGM, definendo il riso carnaroli o la cipolla di Tropea come OGM, forse è il caso di considerare il livello di disinformazione sul tema. Non solo la gestione Clini sugli OGM, conclusasi nel 1999, è stata un far west delle sperimentazioni. In quell'anno, le sperimentazioni in corso erano 182 per un totale di 121 ettari, precipitate a 38 su 3,87 ettari nel 2000, dopo una seria e attenta valutazione sui dossier relativi al programma. Ma anche i miracoli sugli OGM, proclamati dalle aziende del biotech, sono stati dei veri e propri flop. La stragrande maggioranza dei prodotti biotech in commercio, attualmente soia, mais, cotone e colza, hanno una caratteristica principale. Sono resistenti alle sostanze chimiche che le stesse aziende producono e vogliono vendere. I prodotti geneticamente modificati stanno causando lo sviluppo di piante infestanti resistenti agli erbicidi, costringendo gli agricoltori che ne fanno uso a ricorrere a quantità sempre maggiori di erbicidi e sostanze tossiche sulle coltivazioni. Gli OGM, che dovrebbero fornire protezione dai parassiti, stanno causando il fenomeno opposto, come il cotone BT, che ha causato il diffondersi di un super parassita negli Stati Uniti, e il mais BT, che sempre negli USA ha perso la resistenza ai parassiti e porta gli agricoltori a utilizzi sempre maggiori di insetticidi. In Italia, regioni, agricoltori e cittadini hanno chiaramente e ripetutamente espresso la volontà di avere un'Italia e un'agricoltura libera dagli OGM. Clini dovrebbe ricordarsi che, come ministro dell'Ambiente, ha il compito di difendere il territorio italiano, non di metterlo ulteriormente a rischio. Gli OGM ci danno solo due certezze: sono un problema per l'ambiente e costituiscono un rischio ancora non quantificabile per la sicurezza alimentare. Per questo, chiediamo di investire in una ricerca scientifica che abbia come obiettivo un'agricoltura sostenibile sul lungo periodo, in grado di fornire cibo sano per tutti, senza compromettere l'ambiente. Con l'utilizzo di OGM si va nella direzione opposta. Anche per questa settimana è tutto, da Lucia Capparrucci un saluto e l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci.